tiro su un foglio che è quello di Art City Night, che praticamente una mia amica dice, anzi la saluto, Ilaria, mi dice: ma non c'è mica niente a Bologna, ci sono, come, ci sono 4-5 mostre e poco altro. Ho detto: gira il foglio, e ha girato il foglio appunto, e c'è un foglio tipo 50x70 scritto in font 12 con tutte le mostre che succedono a Bologna tra ieri, anzi in realtà già dalla settimana scorsa, fino a domenica, se non addirittura lunedì, perché come sapete Arte Fiera, la fiera di arte contemporanea, è una delle più antiche in assoluto, che esiste dal 1975 se non vado errato, qui a Bologna, la prima fiera d'arte d'Italia, è cominciata, ha inaugurato ieri, e non solo Arte Fiera, ma anche tante altre cose. E prima di tutto, prima di farvi la prima cosa che è successa ieri mattina, è stato questa sorta di colazione del Mambo, che è successa al Mambo, al Museo d'Arte Moderna di Bologna, e dove appunto il Mambo ha presentato quello che sarà il programma da questo momento all'anno prossimo. E appunto noi naturalmente di Coxo Spaziale presentissimi siamo andati a sentire tutto quanto. Siccome sono entrato in questo studio da un minuto e mezzo, vi faccio sentire una canzone che probabilmente conoscerete, e così dopo possiamo andare avanti con le fantastiche. Se trovo il tasto play del CD, che adesso è un po' oscurato, ma penso che sia questo, direi che possiamo andare con un po' di musica. We'll be right back. Yeah! E la volevo segare prima, ma poi mi sono ricordato che c'era questo assolo di chitarra fantastico che non sentivo da quando forse avevo 12 anni. No, non è vero, lo ascolto spessissimo questo pezzo. Questi erano i Neck e in realtà mi ricorda tantissimo gli anni 90, non so bene perché, anzi in realtà lo so benissimo perché il disco si chiama My Sharona, naturalmente. Questi erano i Neck, che è una l'ho preso dalla colonna sonora di un film molto anni 90 che in Italia aveva un titolo terribile, ma che in Inghilterra si chiamava, anzi in America si chiamava Reality Bites, ovvero la realtà che ti morde. Ed effettivamente, come sentite, sto già cominciando a sfogliare a mo' di William Piana, che salutiamo, il simpatico programma di Art City White Night, perché appunto questo, state ascoltando Coxo Spaziale, questa è Radio Città Fujiko, e stiamo parlando appunto di questi giorni, di oggi, domani e dopodomani, in cui la città si veste di arte contemporanea. Dunque, e appunto, dicevamo prima che ieri mattina il Mambo ha aperto le sue porte in tanti sensi e appunto ci hanno raccontato che cosa succederà nei prossimi tempi. E dunque ascoltiamo che cosa ci hanno detto e Roberto Grandi, il direttore e il presidente di Bologna Musei, Matteo Lepore, il assessore alla cultura, il neo assessore alla cultura del Comune di Bologna, e anche naturalmente il nostro caro Lorenzo Balbi, che è il neo direttore appunto del Mambo. Eccoci qua. Grazie a tutti, oggi sono molto emozionato. Sono emozionato perché questa conferenza stampa, e ringrazio tutti per essere qua così numerosi, e insieme la fine di un lungo processo di progettazione che con l'incredibile e magnifico staff del Mambo abbiamo messo in atto in questi mesi, e quindi siamo veramente orgogliosi di essere qua a presentare il frutto di questo lavoro, ma è anche un momento di avvio, perché adesso bisogna farlo, insomma. L'obiettivo è ambizioso e lo sappiamo, e siamo molto contenti di essere qui a finalmente comunicare il nostro progetto per il 2018. Non tutti i musei pubblici e non tutti i musei privati riescono a diffondere e comunicare un programma di questo tipo. Quello che vedete scorrere è appunto il programma del 2018, che partendo dalla Sala delle Ciminiere, che è il nostro spazio espositivo principale per le mostre temporanee, come avevo già annunciato, vedrà in scena due mostre l'anno, questo per sfruttare i due periodi migliori nel nostro ciclo di turisti, che vede una grande mostra inaugurare l'estate, l'inizio dell'estate, quindi nella fattispecie la prima mostra che correrò nello spazio delle Sale di Ciminiere inaugurerà il 21 di giugno, e poi un'altra grande mostra che inaugurerà a dicembre, e quindi sfruttando il periodo delle feste di Natale e poi di Artefiera ovviamente. I due grandi progetti espositivi per quest'anno sono That's It, che è il titolo un po' provocatorio della prima mostra, il primo grande progetto che ospiteremo nelle Sale Ciminiere, che ha un sottotitolo interessante dal mio punto di vista, che è sull'ultima generazione di artisti in Italia e 1,80 m oltre il confine. Questa è una citazione di Munari e mette l'accento sul fatto del fare una mostra di artisti italiani oggi, se ha ancora senso parlare di artisti italiani, se ha ancora senso di connotare una produzione artistica all'interno di una nazione. La nostra idea è quella di aprire tutti gli spazi, non voglio svelare troppo di questo aspetto, di tirare giù le barriere, abolire tutte le barriere anche di confine tra gli spazi del Mambo e tra il Mambo e l'esterno. In questo impeto di apertura sappiamo che l'estate è un momento particolarmente felice per la Manifattura delle Arti, per il Parco del Capriccio, per tutta Bologna. Abbiamo oltre 50 artisti che verranno qui, metteranno a disposizione del Mambo, dei visitatori, delle loro opere, che coinvolgeranno quindi una programmazione diffusa anche in città. Questo è il primo grande progetto di quest'anno, come dicevamo, un'attenzione alla scena giovane, emergente, italiana, ma poi a dicembre avremo la prima grande personale in Italia di un'artista super conosciuta, una vera star del panorama dell'arte contemporanea internazionale, che è Mika Rothenberg. Mika Rothenberg è un'artista nata in Argentina, ma vive da tantissimi anni in Canada, lavora con il medium del video, della videoinstallazione. In Italia non è mai stata presentata, per cui siamo molto felici che abbia accettato il nostro invito di fare al Mambo la sua prima grande mostra personale in un'istituzione italiana. E scusate per i nostri colleghi giornalisti che borbottavano. Questo era Lorenzo Balbi, il direttore del Mambo, che ci raccontava appunto un pochino di quello che sarà il programma di Bologna Musei. Come avete sentito, appunto, due grandi mostre, tra cui una di giovani artisti nati dopo il 1980, che inaugurerà il 22. Innanzitutto io volevo ringraziare. Questo però invece mi sono dimenticato di spegnerlo, da fortuna che ho questi file chiamati silenzio, questo lo dobbiamo ascoltare dopo, anzi. E dicevo, inaugurerà il 22 giugno. Quello che appunto ci hanno raccontato, e anzi poi sentiamo anche prima la prima introduzione di Roberto Grandi, appunto di una nuova apertura del Museo d'Arte Moderna di Bologna. Sentiamo cosa ci dice, dove è andato il primo file? No, non lo trovo. Provo un secondo. Tu, coxo spaziale. Le avevo copiati tutti e mi manca invece la prima introduzione, perché dopo, appunto, come avevate sentito, c'era anche un mio piccolo intervento, ma lasciamo appunto stare il presidente, che ha detto cose interessanti, soprattutto l'hanno messa tutta un po' sullo sportivo, nel senso che c'erano queste simpatiche sciarpe di Maurizio Cattelan che appunto raffiguravano con i colori del Bologna. Raffiguravano il Mambo. Cattelan ha fatto questa serie di sciarpe di tutti i musei importanti del mondo, includendo appunto il Mambo, che è molto simpatico per noi poveri adepti di questa piccola provincia. Dopodiché parleremo di più dell'idea di provincia e di internazionalità, diciamo. Io naturalmente sentendo parlare di open call, di apertura alla città, eccetera, mi sono improvvisamente ricordato quanto Bologna o comunque le istituzioni bolognesi non siano sempre state così aperte, per cui ho fatto questa simpatica domanda al nostro Lorenzo. Innanzitutto io volevo ringraziarvi, da bolognese, da artista e operatore culturale, volevo ringraziarvi per l'intenzione, perché effettivamente vedere questa apertura per me è una novità. La parola open call obiettivamente in 20 anni non l'ho mai sentita da un'istituzione bolognese, e questo mi fa molto piacere. Mi chiedo quanta ricerca verrà fatta rispetto a quello che è il tessuto culturale bolognese, perché effettivamente in passato noi abbiamo visto alcune istituzioni tagliare le gambe ad alcuni fermenti culturali di questa città. Penso ad esempio alla Neon, che più volte ha fatto richiesta di un minimo di fondi per poter sopravvivere, una galleria importantissima, e che invece appunto purtroppo ha dovuto chiudere. E questo vale anche per altre associazioni culturali, per non parlare poi di quelle tra virgolette illegali, che in qualche modo comunque sono sempre stato parte di questa città. Mi chiedo quale sarà il vostro atteggiamento e che tipo di ricerca pensate di fare in futuro. Penso che il programma sia già un po' una risposta, perché la scelta che abbiamo fatto di dedicare uno degli spazi espositivi alla scena locale, all'evidenziare questo tipo di connessioni, sia un po' già una risposta. Quindi adesso abbiamo appunto la mostra di Daolio, poi avremo Rosanna Chiesi, che comunque fa una tradunione, tutta una serie di queste iniziative a cui ti riferivi, e poi avremo i video, tanti dei quali arrivano da esperienze come Link, come tutta una scena di produzione indipendente che ha fatto la storia di Bologna e che non possiamo ignorare come istituzione, a mio modo di vedere, e per cui questo tipo di programmazione va un po' incontro a quello. Però oggi è il momento anche in cui si capiscono le direzioni, cioè c'è un luogo per ogni cosa. La Project Room è un luogo in cui si sviluppa un certo tipo di ricerca su questa scena qui, la sala delle ciminiere più grande invece è quella di un grande museo di arte contemporanea internazionale, quindi lì avremo gli artisti internazionali e anche il ruolo che deve avere il museo per portare avanti questi discorsi e per permettere che iniziative come quelle fioriscano ancora e abbiano una loro indipendenza, una loro autorevolezza. Detto questo, c'è anche tutto un discorso che non è stato fatto, ma è ovviamente tra le linee, di networking istituzionale. È una fortuna di essere parte di un organismo città, di un organismo istituzionale che ci permette di fare collaborazioni con DAMS, con l'Accademia di Belle Arti, non abbiamo citato, ma sono tantissimi progetti in questa direzione, con la Cineteca, che sono i nostri vicini di casa. E quindi questo è sicuramente, non è un obiettivo, questo è il nostro modo di lavorare, perché è la fortuna di essere in un'istituzione di questo tipo. Io che sono novellino, perché sono 6 mesi che sono qui, era del tutto sorprendente questo tipo di relazioni in una città come questa. Quindi la programmazione penso che sia già una prima risposta, e poi tutte le altre iniziative che si legheranno anche. Adesso avremo nei prossimi giorni tutto un nuovo apparato di comunicazione nell'anti-reception, nella parte iniziale del Mambo, in cui anche questa rete di relazioni sarà proprio visivamente sottolineata con partner che non sono solo istituzioni pubbliche, ma sono anche, ad esempio parlo della Manifattura delle Arti, gallerie private, soggetti indipendenti, eccetera. Da parte nostra sappiamo di essere parte di una rete, sappiamo di essere uno dei protagonisti, vogliamo essere uno dei protagonisti, ma sicuramente sarà uno spazio dove ci sta dialogo. Coxo Spaziale. Dunque abbiamo sentito Lorenzo Balbi che appunto ci raccontava quanto Mambo rules, you know? Molto bene. E, come dicevo, il weekend è pienissimo e noi continuiamo il nostro giro. Io tra ieri e ieri l'altro ho chiesto un po' agli operatori del settore, ai nostri amici amanti dell'arte, cosa succede di bello. Poi naturalmente alcuni non sono riuscito a scovarli, come per esempio, che saluto, Anna Ferraro, perché stasera per esempio inaugura Fruit, anzi è inaugurato dalle 5 di pomeriggio a Palazzo Renzo c'è questa fiera che è al suo quinto anno, se non sbaglio, la fiera di piccola editoria d'arte chiamata Fruit, che è una fiera fantastica. Io di solito addirittura partecipo attivamente con questa fiera, ma quest'anno non ne avevo il tempo, per cui mi limito ad andarci più tardi, naturalmente. Anche in questa fiera succedono un sacco di roba, ma non solo, anche ad Arte Fiera succedono un sacco di cose, ci sono stati rappresentazioni teatrali, eccetera, ma ci sono anche 10 progetti principali attorno appunto a quello che è Arte Fiera, che si chiamano appunto Art City 10 Projects, che inaugurano o hanno inaugurato tra ieri, oggi e domani, tra cui appunto Katarina Gellar con Ungrammatical nell'Esprit Nouveau, proprio davanti al nostro al padiglione della fiera fieristico in Piazza Costituzione. Poi in via 100-300 c'è il Collegio Artistico Venturoli, la Fondazione Collegio Artistico Venturoli, che con una mostra chiamata Arte Fiera Polis Special Project con Hannah Lee Erdman, Animal Companion and Telepathic Elegance, eleganza telepatica. E inoltre appunto ci sono Jacopo Mazzonelli, Julian Carani, Street Frames, Erin Schirreff, Alessandra Messali. Vi invito comunque ad andare nel sito di Arte Fiera, che trovate anche domani su www.coxospaziale.blogspot.com come al solito, e guardare appunto tutto quello che succede in città. Ho incontrato anche una giovine e simpatica curatrice, il suo nome è, forse la conoscerete, Maura Pozzati, che mi ha raccontato il progetto che ha curato lei a Palazzo Magnani. Maura Pozzati, che cosa mi racconti della mostra che sta inaugurando in questo momento, visto che noi siamo in differita, ma la trasmissione in realtà è adesso. Che cosa inaugura Luca Pozzi, dove? Allora, Luca Pozzi inaugura Palazzo Magnani, che è in via Zamboni 20, ed è un'operazione estremamente nuova. Si tratta di dialogare con l'antico e quindi, nella fattispecie, con gli affreschi dei Carracci, quindi con il fregio che racconta delle storie della fondazione di Roma, in un modo completamente incredibile sia proprio dal punto di vista pratico e fisico che mentale. Allora, Luca ha costruito una enorme piattaforma su cui si sale a 5 metri d'altezza, in cui il pubblico quindi può tanto girare tutto il perimetro e vedersi gli affreschi dei Carracci a 10 centimetri di distanza, ma dove può anche poi salire togliendosi le scarpe in una sorta di tatami, piattaforma morbida, per poter pensare, per poter guardare, per poter vedere cosa succede, quale tipo di relazioni si instaurano tra la pittura verticale dei Carracci e quindi anche questa storia del Rinascimento, questa storia della grande pittura italiana, il rapporto invece al nuovo lavoro di Luca, che invece ha a che fare con le sue ricerche sulla fisica contemporanea. Quindi ti troverai sdraiato improvvisamente in un mondo fatto di buchi neri, di galassie, di fisica quantistica, di relazioni tra i misteri delle cose e quello che invece in quel momento vedi in quanto spettatore. A me mi hai già convinto, anche perché non ti ho mai visto così entusiasta di un progetto, per cui mi fa molto piacere. Fra l'altro hai co-curato anche la mostra che c'è alla Fondazione del Monte, opera buffa, ma di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ma fino a quanto dura questa mostra? Perché visto che inaugura in questo momento, se non state correndo in via Zamboni in questo momento, potete almeno andarla a vedere in questi giorni. Allora, purtroppo la mostra, che è una vera e propria mostra, perché poi, certo, ha anche sculture di Luca disseminati lungo tutta la quadreria, al di là della piattaforma, quindi al di là di, okay, questa scultura abitabile, ha degli orari un po' particolari, perché non siamo in un museo, esatto, non una galleria privata, siamo in una sede di Unicredit, quindi, okay, una sede di lavoro, quindi avrà degli orari particolari il mercoledì, il giovedì e il venerdì, ogni, okay, settimana. Perfetto. Con dei meravigliosi studenti dell'Accademia che faranno mediazione, proprio per fare capire alle persone che non si tratta solo di entrare in una piattaforma e quindi di poter vedere da vicino gli affreschi dei Carracci, ma che si entra in un'opera d'arte a tutti gli effetti, in una scultura, e quindi è giusto anche che sia raccontato bene la poetica di Luca e il suo lavoro sul connubio tra arte e scienza. Fantastico. Fino al 30 marzo. Ah, abbiamo un po' di tempo. Grandioso. Grazie mille, Maura. 333 180 94 94, se volete raccontarci qualcosa. Il tempo stringe, abbiamo un sacco di contenuto ancora da farvi sentire, perché stasera, oltre appunto alla mostra di Luca Pozzi di cui abbiamo appena sentito parlare, inaugura anche uno spazio nuovo, per cui abbiamo sentito alla preview del Mambo incontro Elisa Del Prete che mi parla di Voxel, che inaugura domani, giusto? Domani sera. Domani, che giusto, sarebbe sì, oggi. Domani sera. Che cosa sai? Che cos'è questo Voxel? Spiegalo agli ascoltatori di Coxo Spaziale. Domani sera presentiamo questo nuovo spazio in cui entriamo con quattro realtà. L'evoluzione che vi sveleremo sabato e anche venerdì di Nosadella 2, ma anche Diver, che è una realtà che fa realtà virtuale, Tommaso Arosio, che è un visual designer che fa videoproiezioni, che ci farà una bella sorpresa anche di sulla città, sullo spazio pubblico, e Zeranta, che è una società di produzione di contenuti, di formati di accesso alla conoscenza. E per cui il tema è la cultura, è il visivo. L'occasione di domani è raccontarci, intanto aprire lo spazio, farvi vedere quelli che possono essere anche degli spazi di postazioni, di chiamiamolo co-working, chiamiamola condivisione. Ci interessa scoprire e capire come uno spazio può diventare anche non solo una condivisione di ambiente, ma soprattutto di progettualità, quindi come imparare a coprogettare, come far integrare diversi ambiti che sembrano molto vicini ma che spesso non dialogano. Esatto, fantastico. E dunque domani sera l'appuntamento è al Voxel in via di Corticella 56, non potete sbagliare, esatto, perché è la storica palazzina dell'architetto Cremonini, colorata con le piastrelle colorate che tutti ricordano come un'ex biblioteca. E dalle ore? Dalle ore 18 fino a mezzanotte almeno. Ok, per cui sarebbe da adesso fino a mezzanotte, perché la trasmissione va in onda venerdì, che sarebbe oggi. Ok, grazie mille Elisa. Grazie a voi. Coxo Spaziale. E ritorniamo in studio, e in studio poi per poco, perché ho poco tempo, visto che qualcuno mi sta col fiato sul collo per la trasmissione che ci sarà dopo, e per cui alle 9 precise Coxo Spaziale terminerà, e anzi anche 5 minuti prima per permettere alla nostra radio di far sentire la pubblicità. Dicevo, non c'è solo naturalmente Arte Fiera, non c'è solo Bologna Musei, non c'è solo Art White Night eccetera, oltre appunto a altri spazi come il Voxel, che sta inaugurando in questo momento, come Fruit, che è in inaugurazione è nella prima serata in questo momento, ma ieri ha inaugurato anche la fiera, diciamo, satellite di Arte Fiera, ovvero la prima fiera che ha affiancato la fiera principale durante da qualche anno, adesso non mi ricordo, di solito è sempre stata nella ex come si chiama nell'autostazione nei piani superiori dell'autostazione, ma quest'anno Setup, appunto la fiera d'arte alternativa d'Arte Fiera, ha inaugurato in un palazzo diverso, ma lo sentiamo nelle parole di una delle direttrici, Simona Gavioli, co-direttrice di Setup, in un nuovo palazzo meraviglioso. Come sta andando quest'anno? Cosa mi racconti? Beh, come sta andando? È presto, perché siamo molto all'inaugurazione, presto, nel senso, certo, che l'inaugurazione, però mi sembra che stiano tutti rispondendo molto bene. Siamo in uno dei palazzi più belli e proprio con la più grande storia, insomma, che abbiamo a Bologna, per cui credo veramente già che già solo quello merita la visita. Assolutamente. Poi 39 espositori, 34 gallerie con 7 gallerie straniere, quindi insomma devo dire che quest'anno c'è un mashup interessante. Più la mostra di Manuela Valentini, che è Break, esatto, diffusa, una mostra diffusa, interessante, okay, anche come concetto. Esatto, è una spaccatura, è una controtendenza, un'inversione di tendenza è la mostra di Manuela Valentini. Setup sta su fino a domenica, giusto? Esattamente, fino a domenica alle 22. Fantastico, per cui invito tutti a venire a vedere questa fiera in via San Felice. Venite tutti. Grazie. Grazie a te. E così ritorniamo in studio e non ho capito perché, ah ecco perché l'avevo spenta io, perché era finita questa simpatica musichetta di sottofondo. Anche Setup merita una visita naturalmente, soprattutto devo dire, cioè non solo per il lavoro di Saba Masumiane e un sacco di altri giovani artisti molto bravi, ma soprattutto anche per la straordinaria bellezza di quel palazzo. Assolutamente, è veramente facciamo quello che oddio, possiamo. Chi è? No, non te, aspetta un attimo, fortunatamente dicevo, stavo pensando alla numero 14. Come avete sentito, la mia musica stasera, sì, per chi è un amante di Winona Ryder o comunque di Ethan Hawke o Ben Stiller, la mia colonna sonora di stasera è basata su Reality Bites, e stavo pensando di andare con l'ultima canzone, ma poi la tronchiamo presto perché abbiamo poco tempo. Ooh, baby, I love your way, every day, yeah, yeah. I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face. Suddenly the day turns into night, far away from the city. Della menzione. In realtà non è un angolo della menzione per niente, perché appunto stiamo solo facendo delle menzioni stasera, ma volevo appunto ricordare alcuni degli appuntamenti che forse non sono da perdere, tipo a parte appunto Fruit, fammi un po' vedere, ho dei link fantastici che però in questo momento non mi si aprono, oltre appunto Fruit, Setup, Arte Fiera in sé eccetera, abbiamo una mostra collettiva chiamata Kahuna, e adesso l'andiamo, cosa devo cliccare? Alt per andarla a vedere? No, devo fare copia e incolla, che è una collettiva, adesso vado a vedere dove, no non ce l'ho, ok, Kahuna, proviamo. Ah, eccola qua. È stasera, vedi? Inaugura alle 18, per cui sta già inaugurando. Rimane aperta per un po', e la mostra appunto si chiama Kahuna ed è curata da nell'ex chiesa di San Mattia, il polo museale dell'Emilia Romagna, presenta Kahuna con c'era una performance di Cosimo Terlizzi, che salutiamo, e sta su fino al 18 febbraio, un percorso di indagine sul senso del sacro nella vita contemporanea, iniziato lo scorso anno sempre nella ex chiesa di San Mattia. Non trovo l'elenco degli artisti, mi dispiace, ma vabbè, lo troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Un'altra cosa da menzionare è Audiovetture, che inaugura domani, domani tempo permettendo, presumo, domani alle 6 in via Atto Gardino 65. Un'idea di Fabrizio Basso, Silvia Cini, che saluto e mi scuso che non l'ho chiamata, Gino Giannuizzi, domani alle, dalle 18 alle 24 in piazza Anna Magnani / via Atto Gardini. Ci saranno un po' di artisti che appunto operano con l'audio. La lista è lunga: Cuoghi Corsello, Emilio Fantin che fa una cosa con dei taxi, una roba del genere, e poi abbiamo Pietro Iusti, Enzo Umbach, Zimmer Frey, Maurizio Mercuri, Stefania Galigati, Shine, insomma un sacco, Silvia Cini stessa, Isabella Bordoni, Fabrizio Basso, eccetera, Codeghini anzi, che saluto, insomma un po' di gente della mia generazione, questo mostra i miei anni, che appunto fanno un intervento un intervento sonoro che sicuramente non è da perdere. Un'altra cosa che non è da perdere, di solito non me la perdo, l'anno scorso sì, però di solito no, è di andare a vedere cosa combinano gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, che di solito tengono l'Accademia aperta fino a mezzanotte, che già per me che l'ha frequentata è abbastanza strano da vedere, ma tendenzialmente si trovano dei nuovi talenti. Io un anno appunto ho incontrato questa giovane iraniana chiamata Saba Masumian, che adesso sta andando benissimo e che è in tre mostre in contemporanea, tutte a setup lì nel palazzo Pallavicini in via San Felice. Anzi, adesso in realtà quando faccio questa roba dovrei anche fare così. Tornando di colpo ad Arte Fiera, anche perché il tempo stringe, io non ho capito come mai quando uno sta facendo la diretta il tempo vola con la velocità doppia. Me lo diceva anche Monica Cuoghi di Cuoghi e Corsello, che saluto, diceva che negli anni 80 il tempo andava più lento, ed effettivamente anch'io mi ricordo così, che tu facevi delle cose, ti divertivi un sacco e poi guardavi ed era solo passata mezz'ora. Ma non vogliamo andare nei massimi sistemi, anche se in realtà quando abbiamo chiesto alla direttrice di Arte Fiera di parlare un po' di quello che succede, lei è un po' andata sui massimi sistemi. Sentiamo prima questo piccolo pezzettino che in realtà ho rubato all'inaugurazione ieri. Facciamo quello che possiamo, però dobbiamo fare le cose in modo consapevole del fatto che il mercato dell'arte negli ultimi 40 anni si è completamente rivoltato come un guanto, cioè è diventata un'altra cosa. Non abbiamo più l'Europa e mezza America, anzi mezza Europa e mezza America di fronte a noi. Abbiamo tutte le due Americhe, un po' di Africa, tantissima Asia, e ricordiamoci che la Cina oggi ha il primo PIL del mondo. Quindi una volta noi eravamo i protagonisti al centro della baia più potente del mondo, cioè il Mediterraneo. Oggi siamo una, come dire, civiltà periferica, grande ma periferica, quindi dobbiamo prendere le nostre contromisure. Moriremo domani, la nostra civiltà è talmente antica che andrà avanti con grande eleganza, però non dobbiamo dare niente per scontato. Perché così come poteva sembrare impossibile un sorpasso dell'industria meccanica asiatica su quella europea, pensiamo alle vicende dei telefonini o dei computer, come sono andate le varie vicende. Insomma, per esempio, noi avevamo l'Olivetti che ha fatto i primi computer, e oggi non ce l'abbiamo più, anzi. Allora, tutto questo può andare a toccare anche settori in cui ci sentiamo forti, come la creatività di ogni tipo. Ma non è che i cinesi non siano creativi, o i vietnamiti, o i coreani, sono semplicemente stati isolati per molto tempo. Quindi il nostro panorama oggi deve essere un panorama di difesa della cultura italiana, con delle fortissime strette di mano con l'Europa. Questa era Angela Vettese, che ho trovato, la direttrice di Arte Fiera, che appunto stava raccontando come il periodo artistico, il periodo per l'economia dell'arte, è un periodo difficile, perché effettivamente quando è nata da Arte Fiera nel 74 o 75 se non sbaglio, il mondo era completamente diverso. Adesso il mondo è più piccolo, ma nel frattempo più grande, nel senso che noi, e dico noi operatori dell'arte locale di Bologna, dobbiamo combattere tra tra virgolette, ma affrontare il problema di una miriade di fiere, di una miriade di altre, altri fulcri di cultura importanti in giro per il mondo, come è giusto che sia. Adesso sarebbe bellissimo avere Angela Vettese ospite qui a Coxo Spaziale, magari anche in un doppio programma o qualcosa del genere, proprio per parlare di questi problemi che sono filosofici, politici e naturalmente vanno ad intaccare anche il mondo dell'arte, perché il mondo dell'arte usa quello che lo circonda e spesso e volentieri, anzi, gli artisti più interessanti, più concettuali sono quelli che lavorano attorno agli issues, alle problematiche politiche, sociali che ci turbano, diciamo. Detto questo, appunto, io naturalmente ho una visione leggermente diversa dalla sua, le ho fatto un'ulteriore domanda. Dunque Bologna, che da che era centro d'Europa quando è nata Arte Fiera, diventa provincia di una provincia. La tua Arte Fiera come reagisce in questo momento storico? No, l'Europa è una rete per definizione, non ha centri e non ha periferie, ha tanti centri tutti collegati tra di loro, quindi non siamo in provincia, siamo in uno dei posti che è raggiunto dall'alta velocità. Per cui siamo in centro. La tua Arte Fiera come la vedi nel futuro? Non so se mi vogliono ancora. Mi rispondi così? Avete sentito che scoop? Cioè, Angela Vettese mi dice, quasi confessa, che forse l'anno prossimo non sarà più la direttrice. Che naturalmente a me piange il cuore perché io conosco il livello altissimo della sua cultura. È sicuramente è tra le curatrici più importanti che abbiamo in Italia. Ha fatto cose importantissime, tra cui organizzare il Festival dell'Arte Contemporanea. Forse qualcuno di voi non era ancora interessata all'arte contemporanea quando questo succedeva, ma effettivamente è stato un momento importantissimo, quello di appunto Angela Vettese, Pierluigi Sacco e altre persone che a Faenza avevano cominciato ad organizzare un festival d'arte contemporanea, che purtroppo è scemato nel nulla e mi dispiace tantissimo di questa cosa, perché c'era veramente tanto pubblico e tanto interesse. Io sono convinto che ci sia tantissimo interesse per l'arte contemporanea, che purtroppo, vabbè, adesso la vediamo domani quando andiamo in giro per Bologna, vediamo metà di Bologna con un sacco di persone che guardano tutte queste mostre, ma negli altri periodi dell'anno entriamo nelle gallerie d'arte contemporanea, non solo a Bologna, in tutta Italia, o nei musei d'arte contemporanea, e se non siamo da soli siamo due, tre o comunque molto pochi, a parte alcune di queste mostrone molto, molto pubblicizzate che vanno benissimo, come per esempio It's Okay to Change Your Mind, che come sentite è anche pubblicizzata prima e dopo le trasmissioni di Radio Città Fujiko. Questo a me fa molto piacere, naturalmente fa molto piacere che il Mambo scelga Radio Città Fujiko per pubblicizzare una mostra come quella, che fra l'altro è da andare a vedere anche quella a Villa delle Rose, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma è sicuramente un momento difficile. L'arte probabilmente sta cominciando a perdere un po' della sua, anzi senza probabilmente, sta cominciando a perdere un po' della sua identità. Naturalmente noi operatori del settore tentiamo di tutto per interessare un nuovo pubblico, per cambiare un po' le cose. Domani sabato, domenica, eccetera, se mi trovate in giro possiamo anche parlare di questo a voce, e poi magari ne parleremo ancora in altre trasmissioni. La settimana prossima c'è Fedra e invece Coxo Spaziale di oggi finisce così, ahimè. Per cui, dunque, fammi un po' vedere quale può essere il nostro... Ah, fantastico, esatto. Questo è veramente indicativo come pezzo per salutarci, ma vi saluto. Io sono stato Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, trasmissione di arte e teatro. Stasera ci siamo concentrati naturalmente sul contemporaneo e questo è il nostro direttore che, come al solito, dice... Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che però non c'è. Questo simpatico player ha deciso di abbandonarmi. Questo era Coxo Spaziale e ci sentiamo venerdì prossimo con la fantastica Fedra. Mama got a cookie then. I'm the ultra modern version, the American man. I don't don't feel good, but I don't feel bad. Cause me, see, I'm nothing. No Republican, no Democrat, ain't nothing in between. Talking about American dreams, cause that's all gone, ain't nothing left for me. Cause me, you see, I'm nothing. Right, left, and right, people say I'm wrong. And they say, hey, look at that slide. Mi sono dimenticato di menzionare la mostra di vino Juggernaut a Palazzo Vittani, inaugura domani sera. Se riuscite ad andarci, troverete tutte le informazioni su www.coxospaziale.blogspot.com domani. Ciao ciao.